5L. Ascolta e trasforma. Devi salutarlo. Lo devi salutare. Devi accompagnarlo. Lo devi accompagnare. Devi attenderlo. Lo devi attendere. Possiamo salutarvi ora? Vi possiamo salutare ora? Possiamo vedervi oggi? Vi possiamo vedere oggi? Possiamo incontrarvi domani? Vi possiamo incontrare domani? Vuoi ringraziarmi? Mi vuoi ringraziare? Vuoi scusarmi? Mi vuoi scusare? Vuoi ascoltarmi? Mi vuoi ascoltare?